Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina, oggi è l'8 novembre e si apre una nuova settimana di Italia in controluce, la prima edizione, quella che state ascoltando alle 6.30, l'approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana, condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. Lo abbiamo detto più volte, la mafia non è solo radicata nelle zone storiche del suo insediamento, certamente a nord, ma anche nel felice centro-nord, come ad esempio nelle Marche. Il reportage di Paola Ceretta. Esiste la mafia nelle Marche. Questa è un'isola felice, è la risposta più frequente. Massimo Del Papa, giornalista e scrittore, è di un altro parere. Qui le prime forme legate alla criminalità organizzata sono dal 1980, siamo nel 2010. Col tempo sono passati tutti. È passata la Camorra, ci sono state formazioni legate alla Sacra Corona, all'Andrangheta, della mafia siciliana. E poi sono arrivate le varie forme mafiose, chiamiamole così, dal mondo. Non ci sono delle formazioni strutturate, però c'è una miriade, c'è una polverizzazione di cellule, non c'è il mafioso su il super boss, ci sono elementi magari distaccati di secondo piano, però anche questo è un territorio dove un mafioso di secondo piano basta e avanza a imporre la legge sua, e le varie forme infiltrazioni sono sempre riuscite più o meno a trovare degli accordi. Per capire come il fenomeno mafioso si è sviluppato sul territorio marchigiano bisogna partire dal contesto imprenditoriale. Sono sorti tra i 60 e i 70 una miriade di calzaturifici che si chiamavano imprenditori, si chiamavano fabbriche, aziende, in realtà erano poco più che laboratori o botteghe a gestione familiare, e hanno continuato per tutti gli anni 80 perché avevano trovato questa nicchia. Poi si è visto che quando è arrivata la crisi non hanno saputo reagire, quindi in questo terreno poi le mafie riescono a penetrare bene perché è un terreno permeabile. Molte hanno fatto ricorso ai capitali mafiosi per restare in piedi. Lido Tre Archi, oggi Lido San Tommaso, è considerata una zona ad alta densità criminale. È un quartiere popolare sulla costa fermana, unica via d'accesso Tre Archi a ridosso della statale Adriatica. Qui convivono pacificamente 51 etnie diverse, perché il razzismo da queste parti non esiste, come racconta un abitante storico del quartiere. Dato che qui d'inverno non c'era niente e nessuno, certo, quando una zona è disabitata, 1080 appartamenti, e la zona è chiusa, allora è cominciato ad arrivare droga, è cominciato ad arrivare prostitute, trans. Lo Stato italiano ha mandato qua anche tanta gente in soggiorno obbligato, e c'è qualcuno, c'è ancora, so persone che a me non danno fastidio. Io personalmente ne conosco 3 o 4, però ce ne sono molti altri e molto più pericolosi. Qui delinquenti ce ne sono tantissimi, sia spacciatori, sia chi compra la droga, sia le prostitute, sia i trans, e qui non esiste razzismo perché trattiamo tutti la stessa tregua. Lido Tre Archi è diviso in due parti: una zona residenziale abitata da famiglie, l'altra, ovvero via Aldo Moro, è regno dello spaccio, della prostituzione. Questa zona non si tocca, quella zona dall'altra parte si tocca. Si sa i casini, però ultimamente anche lì non si tocca più, perché questi personaggi sono entrati anche dentro quella via, sono entrati dappertutto, quindi si fa quello che dice loro. A 4 km da Lido Tre Archi c'è Porto Sant'Elpidio. Qui la prostituzione, legata anche al traffico di droga, ha raggiunto livelli preoccupanti, come racconta il sindaco Mario Andrenacci. Diciamo, la prostituzione italiana di solito si caratterizza come una prostituzione domestica. La prostituzione che invece trova forma più forte, quella proveniente dalle Europa. Poi c'è anche una prostituzione legata ai ragazzi di colore, in particolar modo nigeriane. Nel 2009, in via Fratte, lunga quasi 8 km, sono state censite 83 prostitute in una sola serata. Proprio in quella zona abbiamo raddoppiato quasi la presenza della videosorveglianza. Stiamo studiando la possibilità di fare il terzo turno della polizia municipale, quindi avere un controllo anche notturno. I volontari della Fondazione Monsignor Traini di San Benedetto del Tronto da 13 anni prestano la propria consulenza per prevenire e in alcuni casi curare la piaga dell'usura, praticata più da singoli soggetti che da organizzazioni vere e proprie. Chi si vede preclusa ogni via all'accesso al credito legale si pone nel pericolo di rivolgersi all'usuraio. Quando si può considerare un interesse usuraio? Lo spiega il presidente Lorenzo Di Buò. L'usura c'è quando si superano quelle soglie fissate da Banca d'Italia ogni 3 mesi, conti correnti garantiti. La media fino a 5.000 euro dice 12,85. Per essere usurato febbraio si aumenta del 50%, quindi si aumenta di 6 a 42 e 19 a 27. Il giro degli assegni è un tipo di usura diffuso tra commercianti e piccoli imprenditori della zona. È ritornato un assegno, non hai soldi per coprirlo, gli servono 10.000 euro. Va dall'amico, dice: mi presti 10.000 euro? L'amico gli presta 10.000 euro, no? Però vuole in cambio un assegno di 11.000 euro. Se fra 3 mesi non è in grado, chiaramente dice: allora mi ridai l'assegno di 11.000 e te ne faccio un altro da 12.000. Luigi Di Clemente, dirigente della squadra mobile di Ancona, definisce i mafiosi persone cartesiane che hanno la capacità di entrare in un territorio, di farlo con intelligenza, di farlo con cautela, senza rendersi visibili. E quindi questo ha comportato negli anni una sorta di esportazione di certi modelli. Al porto di Ancona sbarcano continuamente clandestini. Sono per lo più iracheni del Kurdistan, pakistani o afghani. Un biglietto di sola andata per l'Italia costa dai 12 ai 14 mila dollari. Tratta vera e propria di esseri umani. Li gestiscono delle organizzazioni che sono segmentate per definizione, perché c'è chi li recluta, chi li spedisce, chi li trasporta. Al porto arrivano anche grossi carichi di eroina e cocaina, gestiti soprattutto da enclave albanesi. Anche gli italiani però trafficano in cocaina, come gli affiliati della famiglia Alvaro di Sant'Eufemia di Aspromonte. Questo gruppo arriva ad Ancona, si comincia a coltivare in autonomia rispetto alla casa madre calabrese un discreto traffico di cocaina. La cocaina produce reddito, questo reddito lo reinvestivano in locali notturni. Nel settore dell'intrattenimento notturno, oggi tu prendi l'albanese, te lo metti dentro e ti fa quella che si chiama in Sicilia guardiania, coniuga lì all'interno la cocaina e quant'altro. La prostituzione avviene normalmente attraverso il meccanismo delle, noi le chiamiamo le uscite. Significa che uno che ha la possibilità prende la ragazza, paga nelle mani direttamente del gestore o dell'uomo di fiducia che gestisce, che si occupa all'interno di queste cose, e riporta la ragazza la mattina dopo, qualche ora dopo. Il gioco d'azzardo, in mano agli italiani, prospetta lauti guadagni con minimi rischi. Le bische clandestine si presentano come circoli fittizi dai nomi improbabili. Per accedere ai tavoli da gioco bisogna essere conosciuti sotto il profilo patrimoniale. Questo soggetto, che era un grosso imprenditore del settore calzaturiero, sono riusciti a portargli via 2.300.000 euro. Questo soggetto ha fatto denuncia perché alla fine non poteva più uscirne vivo. Esiste la mafia nelle Marche? Sì, esiste, perché ci sono dei soggetti che hanno tentato di infiltrarsi ripetutamente, a seconda anche delle matrici geografiche, situazioni calabresi, situazioni napoletane, situazioni pugliesi. Italia in controluce, ci risentiamo alle 13.30 naturalmente su Radio 24.